Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar Giannino, come va? Alessandro Milan, buon inizio settimana, questo lunedì 30 e un inizio di settimana buono anche ai nostri ascoltatori. Ci sono santi che volano? Ci sono, e oggi è un santo di quello importante, che è Sant'Andrea, quindi Sant'Andrea è uno dei primi apostoli, è il patrono dei pescatori, è uno che insomma accomuna le diverse religioni cristiane. Sai che i santi si è litigato tantissimo la storia della Chiesa, tra le diverse, sì. Invece Sant'Andrea le accomuna a tutti, anche perché c'è questa cosa che mi ha sempre fatto ricordare noi contribuenti. Sai che quando lo beccarono per crocifiggerlo, sì, dice, no, io la croce di Cristo troppo per me, allora io voglio andare in croce a X, per quello si chiama la croce di Sant'Andrea. Ed è la classica cosa, tutte le volte che mi arriva una cosa dall'agenzia delle entrate ogni settimana, io faccio così, cioè, a X, e allora penso a Sant'Andrea. Ma perché ti arrivano ogni settimana dall'agenzia delle entrate comunicazioni? Perché... un giorno dovresti leggercele in onda. Ah, cioè, no, ma se ve le leggo capite solo che a rompere le scatole sono loro. Perché di solito poi, pagando il commercialista, la richiesta relativa ad anni arretrati si scopre infondata. Ecco. Capito? Ecco, quindi almeno un esborso lo devi avere col commercialista. Esatto. E va bene. Allora, 800 24 00 24, cari ascoltatori, se volete chiamarci, ci sono tanti temi sui giornali. A me ha colpito l'intervista di Padoan, caro Oscar, ieri sul Corriere. Insomma, oggi sui giornali qualcuno fa sapere che il governo forse sta mettendo un po' le mani avanti, non dovesse arrivare la ripresa auspicata che poi è lo 0,9%. Ce la dovremmo prendere con qualche barbuto di racca, dalle parti di racca. Diciamo che le previsioni del governo erano troppo ottimistiche a prescindere dal terrorismo. L'abbiamo detto, io l'ho detto, ho scritto più volte, comunque è così. E queste spericolate richieste di usare, prima del terrorismo, la clausola sicurezza per gli immigrati per diminuire le imposte alle aziende, poi adesso volgere il miliardo sicurezza e il miliardo consumi per utilizzare la stessa clausola, insomma, diciamo, siamo un po' corti di coperta. Ecco, questo è il siamo corti di coperta. Però si capisce anche dalle dichiarazioni oggi di Renzi sui giornali che non gli è troppo piaciuta la serietà con cui Padoan ieri ha detto potremmo crescere meno, cioè l'idea, il timore di Renzi che ha improntato tutto questo inizio di legislatura sua all'ottimismo, adesso a scontrarsi con l'idea che effettivamente gli italiani possono essere anche un po' impauriti da quello che sta succedendo, consumare meno, uscire di meno, andare meno nei locali, nei ristoranti, nei teatri. Si è voluto rompere il suo storytelling. Che è tutto ispirato sul fatto che i segnali mondiali sono di minor crescita del commercio, di crisi dei paesi emergenti, di minor crescita della Cina, ma noi facciamo eccezione. Oggi Valentina Conte su Repubblica scrive: attenzione che siccome tutte queste richieste di flessibilità non è detto che Bruxelles ce le appoggi, Repubblica, Valentina Conte dice alcuni pezzi di queste cose che oramai Renzi ha promesso potrebbero dover essere finanziati con aumenti fiscali. Repubblica ecco di oggi. Appunto, dovessero mai arrivare con le mani nei portafogli, ce la prenderemo con qualche barbuto di racca. Però lo vogliamo. Era un po' ironico. Hanno tante colpe, ma era un po' ironica. Vogliamo sentirlo Renzi, appunto, sull'appello agli italiani: non abbiate paura. Se l'Italia si chiude in casa, se l'Europa si chiude in casa, hanno vinto loro. Hanno vinto quelli che vogliono il terrore. E noi dobbiamo assolutamente dare una dimostrazione totalmente diversa. In questo devo dire che cosa deve fare uno statista? Deve dire, non è che può dire abbandonatevi al più cupo pessimismo e alla più cupa paura. È più che comprensibile, poi bisogna anche capire, ci sono dei limiti oltre i quali però forse è meglio tenere i punti fermi. Io per esempio sono molto colpito dalla reazione di quello che è accaduto ieri a Parigi. Allora, ieri a Parigi c'erano dei dimostranti per la conferenza sul clima. Sì. Ok, Allora, qual è il punto? Il punto è, adesso, per via del terrorismo, figurati se io solidarizzo con il Black Bloc. No, però adesso, siccome ci sono stati gli attentati, nessuno protesterà più per nessun'altra ragione. No, protestare assolutamente sì. Sì. Però io dico, quelli che hanno preso, quando hanno finito le cose da scagliare alla polizia, anche i vasi del memoriale, sì, delle vittime... Queste cose, queste cose avvengono da 15 anni, quando ci sono le conferenze del clima, certo, il G20, certo, ci sono state in Italia, a Genova. No. Allora, il problema è che adesso improvvisamente, e io le condanno, sono contro tutte le violenze, ma voglio dire, adesso improvvisamente diciamo, siccome c'è il terrorismo, non dovrebbero più avvenire. Mi pare un ragionamento questo che non fa i conti con la realtà. Ma questo è sbagliato anche secondo me, perché non è che se il terrorismo non sospende le nostre vite regolari, non sospende neanche le vite di chi vuole contestare un vertice del clima, perché ritiene perché che sia fatto male. Dirà, ecco, non mi farete stare zitti, siccome non accetto le multinazionali che inducono l'agenda nazionale internazionale per le emissioni, e non mi farete stare zitti per via del fatto che c'è ISIS. È ovvio che bisogna aspettarsi. Però Cardinal Giannino, so che tu non vuoi rimestare nel torbido. Io oggi ho letto in rassegna stampa il memorandum shock di Monsignor Balda, che dice che ha avuto anche rapporti carnali con Francesca Sciauchi. Sai che si è arrabbiata Francesca Sciauchi? Ci ha risposto su Twitter. Mi ha risposto su Twitter testuale: cosa non si dice in Vaticano per far finta di non appartenere alla lobby gay? Balda dovrà consegnarmi casa. Quindi dice che è pure omosessuale. Dovrà darmi casa, questo sì, chissà perché, negli attici. Però insomma, questo aspetto si è finito qui. In realtà la verità è che oggi riprende il processo. Questo processo, vedete che da quando l'abbiamo detto, però un po' di solidarietà è arrivata nei confronti di Nuzzi e di Fittipaldi, cioè due giornalisti processati per un libro. Grandi direttori, no. E istituzione della Repubblica, meno che mai, cioè la politica si sta comportando come questo processo in Vaticano non ci sia. Nessuno dice niente. L'imbarazzo della Repubblica Italiana è, come sempre quando si tratta di errori del Vaticano e della Santa Sede, totale. Mi dispiace che poi alcuni ascoltatori mi scrivono dicendo: ah, questo Giannino ha aumentato il tasso di anticattolicesimo della trasmissione. Che io sono un salesiano, quindi... Ma no, ma le cose che non vanno, ragazzi, se non bisogna criticare le cose che non vanno eclatanti, fate come volete, io continuerò a criticarle. Questo non c'entra a prendersela coi cattolici, con chi ha fede, coi tanti parroci italiani, lo abbiamo detto mille volte, e lo ridiciamo ancora, fanno i salti mortali senza soldi, però insomma, come vedete, i toni sono questi, ecco. Sapete che un parroco prende alcuni 800 euro al mese, e devono fare i conti con 800 euro al mese, magari di questi una parte li danno anche a qualcuno più bisognoso, no? Quindi stiamo parlando di due chiese diverse, forse, di due chiese diverse. Oscar però mi ha portato qui in eredità un articolo uscito ieri sul Messaggero, per il quale io ridevo come un matto, e cioè le spese pazze della Sicilia che ora l'Unione Europea ci richiede indietro, cioè attualmente l'Unione Europea non le riavrà mai, e perché noi ce ne occupavamo, io me ne sono occupato alla fine dell'anno scorso, esattamente segnalando che la Sicilia, quella che ha il bilancio che non sta in piedi e continua a essere l'eccezione di tutti, per il fine anno e oltretutto con le ordinarie spese per finanziamento della cultura, che cosa fa? Fa tanti soldini per delle cose che ti fanno morire dalle risate, perché è evidente che sono soldi per cricche che poi ti restituiranno in volte. E allora l'Unione Europea questa volta ha detto basta, la Sicilia ci dà 70 milioni indietro, perché questi fondi, quale destinazione al turismo? Sono dati a pioggia. E allora devo dire la verità. Sagre. C'era una che mi ha colpito. La sagra del taratata. La sagra del taratata. Ma cos'è la 43.000 euro sagra del taratata. Chiamateci, diteci che cos'è, magari è una sagra bellissima, importante. La sagra, ma dov'è? Adesso la vado a cercare, vai Oscar. La sagra del taratata. Poi naturalmente adesso non si può più dire, però la lista dei presepi siciliani finanziati è una roba, cioè capite che solo quello di Custonaci 162.000 euro e così via. Poi c'è il raid dell'Etna, che ovviamente fa pensare a cosa il raid. Aspetta, allora è a Casteltermini. Casteltermini. La sagra del taratata. Che veramente fa pensare al fatto che taratata, i soldi stanno qua. Comunque sia, in buona sostanza, più o meno è così. No? Allora, che ne so, spese finanziate dall'Unione Europea come sostegno alla cultura, il servizio ristorazione del Teatro La Verdura di Palermo. Cosa c'entra con la cultura? Europei, la ristrutturazione di bar in provincia di Messina, dice, perché senza i bar che funzionano non arriva il turista. Allora, stavolta l'Unione Europea si è scocciata. Sì, però questi soldi li riavrà indietro ma Bruxelles. Per idea. Perché poi ce li ridate indietro, ma che vuol dire? Ma ce li date indietro. Quando mai? Ma io devo dire la verità, ieri c'erano, cioè, comunque sui giornali mi ha colpito un altro paio di articoli. Primo, in un paese serio. Paese serio. Se il presidente appena dimissionato, fatto secco dal governo delle Ferrovie dello Stato, rilascia un'intervista al Corriere della Sera nella quale dice: cari italiani, mi hanno preso in giro perché qui non è stato possibile stabilire in un anno e mezzo come si porta in borsa Ferrovie, e a noi ci hanno dato il mandato per portare in Ferrovia, e quando si è capito che io ero amministratore delegato, avevamo anche egli sostituito, avevamo idee diverse, allora il MEF ci ha avvisato che ha costituiva lui una commissione per vedere come privatizzare. Questa commissione non si è mai riunita. Allora, in un paese serio, se uno che stai mandando a casa ti sul Corriere della Sera scrive cose simili, qualcosa avviene. In Italia nessuna reazione, nessuna, proprio zero. È un paese molto interessante. Intanto, Oscar, volevo sentire un ascoltatore mentre ci scrive Lorenzo Nespoli, che la sagra è il taratata, una manifestazione secolare. Serissima. Ma noi infatti non abbiamo dubbi, abbiamo più dubbi sul finanziamento con quella cifra lì. Comunque, Dario da Mantova, buongiorno. Sì, ciao, buongiorno. A tutti. Io volevo fare riflettere su un particolare. Noi stiamo cercando di valorizzare la cultura e giustamente Renzi ha detto: per ogni soldo all'intelligence che combatterà il terrorismo diamo lo stesso quantitativo di denaro alla cultura. Allora io mi chiedo, visto che l'arrivo del popolo islamico dentro la nostra società è assolutamente inevitabile, perché non vogliamo caricarlo di una valenza negativa e di attribuire a tutto il miliardo e mezzo di persone l'appellativo di terroristi. Perché non cerchiamo di aiutarli a evolversi più velocemente? Qual è uno degli aspetti più terribili della loro cultura, più lontani dalla nostra? Il fatto che le donne vivono nell'ignoranza e vengono mantenute, nonostante arrivino qui, segregate. Cioè, ma lei, Dario, ci sta dicendo che bisogna fare un grande sforzo per farli elevare culturalmente? Vorrei dire soltanto che per legge potremmo obbligare le donne musulmane a prendere la licenza di quinta elementare o di terza media. Ma guarda che sono magari più istruite di noi, il fatto che parlino al velo credetemi, noi viviamo la realtà fuori dalle grandi città e viviamo una realtà dove le donne le bambine arrivano a studiare fino alla terza media, poi vengono rimpatriate in Marocco, sposate con gente che non hanno mai visto di 25-30 anni e conducono una vita da miserabile. Vabbè, Dario, succede anche questo, succede, mi sembra che però sia una generalizzazione un po' così per buttare nel mucchio. Comunque, insomma, vuole contrastare con la cultura. Intanto arrivano i 500 euro ai diciottenni. Gianfranco da Roma. Gianfranco, buongiorno. Gianfranco. Buongiorno. Allora, volevo dire questo: nonostante la campagna umanitaria di Papa Francesco, che è in dubbia, vorrei sapere una cosa: perché Papa Francesco, quando rientra nella sua sede di Roma, non cerca di mettere a posto le cose che sono all'interno dello Stato Vaticano e la situazione del vecchio segretario di Stato, le eventuali cricche che si muovono, e lui lo sa benissimo, contro di lui, perché non vorrei che... Dovrebbe fare un po' di pulizia, dice. Pulizia parecchia, perché non vorrei che va a finire che un Papa Francesco, di nome di fatto che rimarrà per tutta la storia, faccia la fine di Papa Luciani. Ah, tutto qua. Caro Gianfranco, grazie. Non lo so, abbiamo una risposta, Oscar, perché non fa pulizia? Forse no, e soprattutto non mi voglio avventurare. Sta di fatto che dopo anni e anni di annunci da parte di più pontefici, ormai più pontefici, di pulizie, nuovi vertici allo IOR, all'APSA e di qua di là, come evidente, il cardinale di Curia e le espressioni di alcune conferenze episcopali continuano a pesare molto, cioè la volontà del Papa, che molti descrivono di volta in volta come basta la volontà del Papa e si fanno le cose che dice, non è così, è un organismo complesso con poteri forti, e i poteri forti sono quelli di grandi conferenze episcopali, grandi ordini e grandi congregazioni. E questo è. Allora diamo neanche i nostri lì Oscar, un uomo solo al comando. Neanche ecco. Neanche lì. Diamo i nostri Oscar, che poi annunciamo l'ospite di dopo. And the Oscar goes to... Io oggi voglio darlo a Massimo Russo, che sulla stampa ha scritto una bella pagina per raccontare come in Italia si parla tanto di banda larga, di internet veloce. Poi sapete quanti permessi servono per posare 10 km di fibra? 23 permessi, cioè un permesso ogni 432 metri di cavo. Quindi internet sarà veloce, ma la burocrazia no. E tra l'altro approfittiamo l'occasione per fargli anche gli auguri, visto che poi con il nuovo corso, quando arriva Maurizio Molinari che farà il direttore, lui... sarà il condirettore. Quindi facciamogli gli auguri, che è anche un bel segnale, perché lui si occupa di temi che sono secondo me quelli declinati al futuro, che servono per l'economia italiana. E comunque un bel segnale anche Maurizio Molinari, secondo me direttore della stampa. Allora, io invece acchiodo, ho diverse cose, ma continuo a darlo a Sergio Rizzo, che dice anche il Giubileo di Roma è in ritardo, perché questo tema, insieme a tutto il tema delle difficoltà per i sindaci a destra e a sinistra, in questo fine settimana è stato molto sui giornali. Il sindaco non lo vuole fare più nessuno, scriveva Mattia Feltri sulla stampa di ieri, e mi pare vero, e come si capisce dalle difficoltà per trovare candidati sia a destra che a sinistra, a Roma e a Milano. E comunque Sergio Rizzo oggi torna alla amara realtà: il Giubileo di Roma è in forte ritardo e non si riesce a capire come diavolo se ne esce senza rimediare qualche figuraccia. Allora, caro Oscar, noi dopo la pubblicità avremo ospite uno scienziato importante, Silvio Garattini, che ha fondato l'Istituto Mare Negra a Milano, è direttore. Parleremo di scienza, parleremo di medicina, parleremo anche un po' di omeopatia, visto che lui ha scritto un libro per criticare quella che per lui non è assolutamente... C'è un'intera equipe di scienziati italiani oltre a lui, certo. del Mario Negri, ci sono farmacologi clinici fondamentali e pongono all'attenzione di chiunque. È un libro per tutti, lo voglio dire, non solo per scienziati o esperti, che però vi dà tutta la documentazione del caso, anche scientifica, ponendo interrogativi molto pesanti, perché dice in realtà, per la missione stessa di chi fa omeopatia, i prodotti omeopatici sono diluiti in maniera tale che i principi attivi non ci siano, e acqua è una soluzione idroalcolica. E in buona sostanza, quindi, il riconoscimento che l'ordinamento italiano e anche internazionale riconosce a questi farmaci, che in Italia sono venduti in farmacia, prescritti da medici, eccetera, eccetera, non sta in ovviamente piedi. È una posizione che fa molto discutere. Il titolo, infatti, è Acqua fresca, col punto di domanda dedicato all'omeopatia. Comunque, parliamo di questo tra poco. State ascoltando un programma offerto da San Martino di Castrozza, Passorolle. Spettacolo e avventura tra le Dolomiti. Eccoci qui alle 8:40 minuti, caro Oscar Giannino, siamo eccoci tornati a parlare un po' di scienza, se vogliamo, con uno scienziato che è nostro ospite, è Silvio Garattini. Buongiorno, professor Garattini. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, il professor Garattini, che ha fondato l'Istituto Mario Negri a Milano, di cui è direttore, ha scritto questo libro insieme ad altri importanti scienziati sull'omeopatia, e ci arriviamo tra poco. Però, professor Garattini, io lo voglio ricordare, lei è uno, siccome spesso viene accusato, l'accusa che le fanno è sta dalla parte delle aziende farmaceutiche. Lei è uno che ha sempre detto che gran parte dei farmaci che troviamo in farmacia sono inutili, o meglio, sono in commercio perché? Sono in commercio perché rispondono soltanto delle esigenze economiche e non rispondono certamente agli interessi dei pazienti. E ormai, insomma, la medicina purtroppo è diventata un grande business, e quindi ci sono tutti i vari profittatori, diciamo, di questo mercato, che è molto importante, perché basta pensare che il mercato dei farmaci nel mondo è l'ordine dei trilioni di di dollari, quindi insomma sono delle cifre estremamente importanti. Certamente l'industria farmaceutica non pensa che io stia dalla sua parte, dalla loro parte. Perché fa questo tipo di critiche, però no? Certo, al consumatore, al paziente, insomma, professor Garattini, apprendere che c'è il presidente dell'AIFA gravato da un conflitto di interesse, come è uscito fuori in questi giorni, non è che gli dà un ulteriore elemento di garanzia, non crede? Beh, questo naturalmente bisognerà appurarlo. Io sono abbastanza garantista, cioè fin quando le cose non sono giusto, definite, certo, è bene non accanirsi e non prendere posizione. È vero tuttavia che i conflitti di interesse in campo farmaceutico sono notevoli. Il primo è rappresentato dal fatto che tutta la documentazione che deve essere presentata per ottenere un'autorizzazione può essere presentata solo dall'industria farmaceutica, quindi questo c'è già un conflitto già, in questo. Dice già come ci sia un conflitto intrinseco in qualche modo. Sarebbe invece molto meglio se almeno una parte della documentazione dovesse essere rappresentata da un ente indipendente. Senta, un altro dei suoi temi di battaglia, adesso poi andiamo subito dopo al libro, okay, e l'omeopatia, è quello contro la semplificazione e le scelte sdrucciolevoli, con errori incredibili, incalcolabili, che commette la politica volendo decidere lei, sì, e non la peer review, il giudizio basato sull'evidenza sperimentale, sull'analisi di chi è collega della ricerca, volendo decidere lei chi è scienza e dando i soldi. È sollevato il caso di un nuovo bis, per così dire, del caso Stamina, anche perché è lo stesso meccanismo di finanziamento, questa volta in legge di stabilità, con l'allocazione di alcuni milioni a un progetto di ricerca per utilizzo di cellule staminali, di prodotti da cellule staminali sulla SLA, e in questo caso è il professor Vescovi che viene assegnatario della politica. Perché la politica decide lei a tavolino quali sono i progetti di ricerca senza evidenza scientifica da finanziare direttamente? Perché molto spesso guarda soltanto al fatto di poter ottenere una approvazione da parte del pubblico. È stato il caso tipico di Stamina, cioè l'idea di poter avere qualche voto in più se accarezzano in qualche modo quella che potrebbe essere l'indicazione della gente, che evidentemente, anche senza sapere molto, è sempre in favore di tutto quello che può giovare alla salute. Spesso naturalmente non è vero, però i politici di solito cercano il consenso, e noi siamo un paese anomalo da questo punto di vista, perché mentre nella maggior parte dei paesi del mondo c'è sempre un'interfaccia fra la scienza e la politica, cioè molti paesi hanno il scientific advisor, hanno gruppi di consiglio eccetera, per cui prima di prendere decisioni di carattere tecnico consultano gli esperti. Da noi questo non esiste. Però qui c'è anche un ampio numero di discipline, per così dire, di ricerca medica, insomma l'embriologia eccetera eccetera. Noi viviamo in anni in cui questa roba è stata molto politicizzata, cioè c'erano gli embriologi amici della destra e quelli amici della sinistra, e quelli amici della destra erano quelli favorevoli a tutti i divieti della legge 40, che non aveva uguali negli altri paesi. È un po' così, cioè anche nel vostro mondo ci si è prestati un po' o no? Ma molti, molti, un certo numero purtroppo di ricercatori si prestano a questo tipo di giochi, cioè a essere in favore di questo o di quello, o la cosa più grave è quella a astenersi in qualche modo, a non entrare in discussione con la politica per paura poi di avere punizioni di vario tipo. Noi per esempio, di fronte al caso che lei ha citato, abbiamo aderito, parecchi ricercatori hanno aderito, hanno scritto una lettera che è stata pubblicata qualche paio di giorni fa sulla stampa, proprio per protestare contro questo modo di fare. E di assegnare i soldi. Certo, gli scienziati dovrebbero essere un po' più attenti e un po' meno timidi, diciamo, di fronte a questi problemi, e se reagissero in modo adeguato probabilmente anche i politici ci starebbero molto più attenti. Allora, professor Garattini, parliamo un po' di questo libro dal titolo Acqua fresca, col punto di domanda riferito all'omeopatia, che lei ha scritto con altri scienziati. E diciamolo a chi ascolta, quel punto interrogativo è puramente retorico. I prodotti omeopatici sono acqua fresca. Lì c'è spiegato il perché, però va detto... E anzi, tutto ciò che riguarda la regolamentazione è a patto che sia chiaro che quel prodotto è acqua fresca. Però, esatto. Però partiamo dalla domanda, se vuole, opposta. E professor Garattini, perché secondo lei moltissimi italiani e anche moltissime persone nel mondo utilizzano l'omeopatia? Beh, perché diciamo c'è anche molta creduloneria, non è questa una riprova, il fatto che siano in tanti. Non è una riprova che questo sia efficace. Ci sono anche moltissime persone che bevono la camomilla per l'idea di poter dormire, ci sono molte persone che credono agli oroscopi, la RAI tutte le mattine emana i suoi oroscopi e tanti la seguono. Insomma, questo non è una buona ragione quella di pensare che siano in tanti e quindi sia giusto. Però mi demolisce anche la camomilla, cioè neanche quella va bene per dormire, insomma, professore. Voglio dire, ci sono tante cose che si fanno con l'idea, ci sono tanti superstiziosi, se li pensano tutti gli superstiziosi che ci sono, ma non è che... essere superstiziosi porti qualche vantaggio. No, ma perché comunque diciamolo, nel 2014 l'ultimo dato ufficiale che abbiamo vede gli italiani scendere molto. Sì, no, ma mi ha colpito, ho fatto questa domanda perché invece nel primo capitolo si racconta che l'omeopatia ha avuto un boom alla fine degli anni 90, laddove la medicina non ha prodotto nuovi farmaci, non ha ottenuto nuove conquiste scientifiche, ed ecco allora che per molti la risposta è stata questa. Allora, può essere l'omeopatia una risposta alla inefficienza in alcuni casi della medicina? No, non è una risposta, cioè è una falsa risposta. È una falsa risposta. Come acqua fresca, naturalmente non può essere una risposta. Naturalmente non si può. Professore, posso chiedere di spiegare perché acqua fresca? Perché la gente crede che sia una formula liquidatoria. Invece le chiedo di spiegare di che si tratta. Ecco. Si tratta proprio di questo, cioè della modalità con cui si prepara il prodotto omeopatico. Cioè, se lei ha una sostanza madre, una matrice, diciamo, una bottiglia in cui ha dentro il prodotto che ritiene attivo, una pianta, un estratto d'organo, una qualsiasi cosa, e da lì prende, per esempio, un centimetro cubico, unisce 99 centimetri cubici di acqua, agita, e poi da questo nuovo recipiente prende uno di liquido, 99 di acqua, agita, li mette in un altro recipiente e poi va avanti così per 10-12 volte. Alla fine dice il principio fino, attivo. Fino a 24. Fino a 24. Buttare, questi sono i preparati omeopatici. Esatto. Dice alla fine il principio. Come buttare una bottiglia di Coca-Cola in una piscina olimpionica e poi pensare che quella... sia Coca-Cola. Sia Coca-Cola, esatto. O faccia qualcosa, insomma, sparisce. Tant'è vero che secondo la legge di Avogadro, che è una legge che non è mai stata smentita da nessuno, quando si arriva a una certa diluizione, la probabilità che ci sia una molecola sola di quello che c'era all'inizio è molto bassa. E d'altra parte, diciamo che la gente non ha l'idea di come si faccia un prodotto omeopatico e quindi pensa che ci quindi sia dentro qualcosa, vede tutte queste boccettine. Ma perché nel recepire le direttive europee, tanto per cambiare la politica italiana, è tornata a prendere decisioni del tipo A, è prescritta da un medico, B, è venduta solo nelle farmacie con il farmacista iscritto all'ordine? Questo conferma l'idea che in realtà ha dell'efficacia scientifica. Appunto. Certo, cioè questo è una modalità per accreditare, ma è sempre l'ambiguità della politica, cioè da un lato accreditare, con queste forme, giustamente come dice lei, ma poi però obbligare a scrivere che questo prodotto non ha nessuna indicazione terapeutica. Che acqua fresca. Appunto. Allora se non ha nessuna indicazione terapeutica, perché uno lo deve prendere? Cioè secondo lei dovrebbe essere per esempio non rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale, come in Gran Bretagna c'è questa discussione? Oggi non è rimborsato, sì. Oggi c'è solo qualche caso in qualche regione, insomma, ma oggi in Italia non è rimborsato. In Inghilterra, dove era rimborsato, hanno preso la decisione di non rimborsare. In Australia c'è stata recentemente una, diciamo, una delibera da parte del Consiglio della Sanità australiana che ha avvertito i cittadini che si tratta di un prodotto che non ha nessuna attività terapeutica. In Italia c'è ancora sempre questa ambiguità, perché per esempio anche gli ordini dei medici non dovrebbero accettare persone che usano medicina alternativa, quando la stessa deontologia dice che il medico deve utilizzare i prodotti che sono basati sull'evidenza. Allora però, professore, visto che il tempo corre, ci sono, come poteva immaginare, tantissime telefonate, messaggi, immagino, eccetera. Allora però non c'è tempo per dare le telefonate e i messaggi, ma li riassumiamo noi, le critiche che noi vediamo scorrere sono quelle che lei è il difensore delle aziende farmaceutiche. Beh, e soprattutto questo... questo ci ha detto all'inizio, che... E poi moltissime persone dicono mi curo con l'omeopatia da anni guarisco. Una domanda che spiegherebbe molto, perché c'è una domanda come quella di Paolo: qual è la differenza vera nell'efficacia tra omeopatia e effetto placebo? Ecco, perché è questo, la risposta la trovate nel libro ben spiegata, però sì. Se dovessimo dire in una parola, professore? Certo, quello è l'effetto, l'attesa che si ha di un'efficacia o anche solo l'interesse che un medico porta a un paziente, già questo dà uno stato di benessere che noi chiamiamo appunto l'effetto placebo. Però bisogna anche dire che quelli che si sentono bene perché usano l'omeopatia, bisogna vedere perché cosa, cioè perché sarebbe criminale prescrivere omeopatia a un diabetico per curare il diabete, o a una persona che ha un tumore, o una persona che ha una grave malattia. In generale si prendono questi prodotti omeopatici soltanto per prevenire delle cose, cioè il classico, la mamma che lo dà al bambino nella speranza che abbia o non abbia il raffreddore, cose che poi sono, siccome sono difficili da verificare, perché stabilire il rapporto di causa ed effetto Non è facile. Comunque io ricitiamo il libro Acqua Fresca, col punto di domanda retorico, a cura di Silvio Garattini. Lo potete trovare in libreria e fatevi un'idea e leggetelo, ne vale la pena. Non è vero che sono premi Nobel che stanno dimostrando l'efficacia all'omeopatia, come pensate. Non è vero. Ha distrutto però anche la camomilla per dormire, professor Garattini. Ha detto che ne hai diritto, ma non credere che sia proprio così, insomma. Va bene, dai Oscar, ci troviamo domattina. Continuate su Radio 24 con Mix 24, Giovanni Minone e la sua squadra, mi raccomando.